Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. La nebbia sarebbe anche una bella cosa se solo si vedesse, perché ti spinge al ragionamento, eh? Te ragioni, te dici: io so che la realtà esiste anche se io non la percepisco, eh? Esiste lei, ma te non la percepisci. E dopo senti, pum, era il tir con i stop che non andavano, eh? Esisteva lui, ma te non l'avevi percepito. E dopo, pum, l'hai percepito. Perché con la nebbia in macchina non serve a niente i fari abbaglianti, che sono quelli che abbaiano, ma non serve neanche ai fari anabaianti, che sono quelli che ananabaiano mica, no? Con la nebbia ci vuole i offendi nebbia, ma la nebbia non si offende, non è permalosa, lei sta lì, perché la nebbia è come tua moglie, lei ha capito che è proprio restando che ti dà fastidio, è quello che ti spinge al ragionamento, eh? E siamo tutti persi, in questo batuffolo di bambagia, questo bicchiere d'anice, tutti che parlano da soli, che chiamano Gino, Beppi, Esio, mamma, ma non sono mica matti, no, loro erano partiti con qualcuno e dopo l'hanno perso per strada, e una mattina in questo bicchiere d'anice mio nonno con la bicicletta non ha percepito la curva del canale, è andato dritto lui, meno male che era stretto il canale, ha continuato a pedalare, è andato su dall'altra parte, non si è accorto di niente, ha soltanto detto: mai sentito un tasso di umidità così elevato? Io so bene cos'è la nebbia, perché vengo dal Polesine, nebbia è il prodotto interno lordo del Polesine. Si dice Polesine e la gente pensa a nord-est, ma noi non c'entriamo niente con nord-est. Il Polesine è dentro il nord-est solo geograficamente, ma siamo più una filiale meridionale del nord-est. Te, per capire il Polesine, devi pensare al Messico con la nebbia, uguale. Abbiamo un'economia strana, mangiamo pesci strani, siamo gente strana. Pensa anche solo all'economia. Intorno a Rovigo ci sono queste aziende che producono le scenografie per le giostre. Sai quei pannelli in plexiglass colorati con le luci, e le vendiamo alle giostre di tutta Europa. Pensa, siamo gli unici che riescono a farsi dare soldi dai rom. Ti rendi conto? Che tipo di economia che abbiamo? Siamo geniali, però. Emozioni, risate, ovviamente, per un territorio che nel cuore mi sta, un grande comico, più volte ho sentito Natalino, e lui stesso dice: sei l'unico che parla in questo modo del Polesine. No, Natalino non è esattamente così, in fondo lo ami tantissimo anche tu. E ringrazio tra l'altro GR di Radio Popolare, la linea che arriva nel Last Minute. Ho voluto partire in questo modo per il Last Minute. Allora, abbiamo ascoltato l'Incipit a teatro, al Teatro Olimpico di Vicenza, Palladio tutti i tempi, una roba. Ercole in Polesine, questo è lo spettacolo che ho avuto la possibilità di vedere, dove Natalino Balasso si immagina questo semidio che si perde in questi territori, incontra personaggi particolari, le 12 fatiche di Ercole tradotte in versione polesana. Allo stesso modo ha tradotto anche l'Odissea, ora con un lavoro al Teatro Fanin domani alle ore 21 dedicata al Ruzzante 1502, scrittore, drammaturgo, attore, commediografo padovano, che è stato una figura molto importante, rivisitato da Natalino Balasso. Ringrazio anche Jarno che ha giocato con noi, andrà a teatro, un ingresso più uno comunque per tutte e per tutti. Domani Teatro Fanin, Natalino Balasso in Ruzzante. Inizia così il nostro Last Minute.